amico a metà, che ti sveglia non sa che parlare di film e parlare di box o parlare di lei, di una lei che non c'è e chissà mai dov'è. Ah, ah, ah. Un amico a metà parla poco, si sa, e nasconde i suoi guai, anche se ascolta i tuoi non ti dice chi è, cosa ha fatto e perché, è un mistero, ma tu sei un amico di più. Devi provare a parlarmi se vuoi che conosca qualcosa di te. Voglio che tu sia diverso e un po' più sincero, almeno con me. Non devi arrenderti al mondo, in fondo i tuoi guai sono gli stessi che ho io. Non devi farti problemi se questa è la vita, io sono con te. Un amico a metà, un amico a metà. Un amico a metà, quando piange si sa, vuole stare di là, non ti dice di più, se gli chiedi cos'hai. Caro amico a metà, tu non fare così con me, e domani vedrai, parleremo di noi, di qualcosa di più, di un amico a metà, che una volta eri tu, ripensandoci poi ci rideremo un po' su. Essere amici è importante, se nell'amicizia c'è sempre l'amore, non è un disastro sbagliare la cosa.